piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Mi sto occupando di fare un'operazione di magenea, nella specie una fattura di sofferenza, ai danni di una persona che si è comportata in modo malvagio, ai danni di uno di quei classici seduttori, no? Un discorso a parte, merita il materiale che io ho scelto per realizzare le fatture, l'argilla. E la simbologia dell'argilla è legata comunque a delle entità che noi richiameremo per fare in modo che questa fattura diventi operativa. E questo è lo strumento con cui lui ha fatto i danni, no? Quindi abbiamo piantato due chiodi sui testicoli per fare in modo che lui non potesse più avere energia sessuale o per danneggiarlo comunque in maniera più generale dal punto di vista sessuale. Abbiamo piantato tre chiodi in testa per fare in modo che comunque lui abbia delle forti sofferenze dal punto di vista mentale, un chiodo sul cuore per fare in modo che non possa realizzarsi dal punto di vista sentimentale, appunto. Dopodiché la candela, il verde non è soltanto legato ad Anael come possono pensare molti, il verde è il colore preferito dall'entità che noi abbiamo chiamato a sovrintendere la realizzazione, certo, di questa fattura. Sono tutte panzane, sono cose su cui non credere, ma vedere un pupazzetto fatto di pongo con il pisellino e le sue palline e questo signore che in un tutorial su YouTube ci infila dei chiodi dentro dicendo che questo nuocerà alla sua attività sessuale, un pochino qualche pensiero lo fa venire, ma probabilmente qualcosa del genere ha fatto impensierire un noto imprenditore romano con abitazione al centro di Roma, molto conosciuto, che nel tempo ha dato oltre 320.000 euro a una fattucchiera solo per il fatto di aver trovato delle bambolotte voodoo nella sua attività commerciale a casa sua, adesso non ho ben capito dove. Sarà talmente spaventato, perché era un momento che gli affari non andavano benissimo, stava un po' giù di salute, ha fatto lo sbaglio di sentire questa maga, qualcuno l'avrà consigliato. Lui aveva molta fiducia comunque nella magia, ma siamo un paese che ha una gran fiducia nella magia, se no non starebbe a bere acqua fresca pensando che siano medicine, non sarebbe a farsi gli infusi con la camomilla, il bicarbonato, il succo di limone per curarsi il cancro e cose del simili. Guardate che tutto ha una sua corrispondenza. Abbiamo parlato giorni fa di signori che si mangiano la placenta, che tengono il cordone ombelicale attaccato ai bambini per non interrompere l'aura. Ecco, queste sono tutte operazioni che hanno qualcosa di magico. Noi stiamo lentamente facendo riemergere la confidenza nel magico. A un certo punto l'uomo disse: basta, non se ne può più, penso perché sono, Dio è morto, la razionalità, la scienza, il rigore scientifico è quello che fa progredire l'uomo, non le credenze, le superstizioni. E oggi siamo ritornati nuovamente a questo. L'imprenditore aveva dato un paccone di soldi a questa maga che gli avrebbe tolto il malocchio, e se scorriamo nel più avanzato luogo di espressione dell'umanità, che è la rete, che sono i social network, vediamo comunque segnali continui di questo riaffiorare del magico. Beh, voi ci credete nella magia, nella stregoneria, nelle fatture? Avete mai pagato qualcuno per togliervi di dosso qualcosa? L'invidia, il malessere, pensate che qualcuno vi voglia tanto male? A me lo dicono tutti i giorni, e guarda, c'è l'invidia, sei circondato dall'invidia, fai qualcosa. Dico: ma vedete, c'ho un po' di gastrite, quella è l'invidia. Veramente un momento che mi va proprio di sfiga anche nel campo del lavoro, è l'invidia, fatti fare qualcosa, e mi consigliano, sono da quello che mi fa il sale, che mi regala il cornetto, che mi dice: c'è una persona tanto brava, guarda, non è un mago, perché è laureato in psicologia, però ti può aiutare, c'ha delle tecniche, beh, io tutto questo mi fa molto sorridere, ma voi rispetto comunque quelle che sono le vostre credenze, il vostro punto di vista, riuscite questa mattina a convincermi che in realtà qualcosa c'è? Beh, io guardo e contemplo ancora l'omettino fatto di pongo con i suoi chiodi infilati nelle palline e mi fa tanta tenerezza. 800 24 00 24, ci andreste al mago? Ci siete andati? Consigliate qualcuno ad andarci? Avete qualche avventura da raccontare? Altro sistema per mantenere l'amore di un uomo: di sabato alle 18 prendere 30 centimetri di nastro rosso, su di esso scrivere con inchiostro bianco il nome dell'uomo, dopo prendere 30 cm di nastro bianco e scrivere il vostro nome per 7 volte. Unire poi i due nastri in modo da fare 7 nodi, avvolgerli in un panno rosso e sotterrare in aperta campagna. Que- questo è il sortilegio dei 30 centimetri che bisogna prendere due volte a settimana. Signore, avete avuto, sembrerà volgare l'accostamento, ma questo dice la maga, qualche sofferenza d'amore, qualche delusione, qualcuno non vi merita, qualcuno è affetto da un profondo narcisismo, oggi va molto questa parola, è un narcisista. La rete è piena di tutorial di persone che spiegano come combattere gli uomini narcisisti, e dopo aver ascoltato tutti gli psicologi, i maestri di vita, gli analisti, gli esperti del profondo, i consiglieri, si va dalla maga. La maga dice: esiste il rimedio dei 30 centimetri, di prendere 30 centimetri due volte a settimana di nastro rosso, ci fai tutti i nodi, alle 18 poi vai a sotterrarli. Ma quante signore e signorine avremmo visto a Villa Borghese, nei parchi cittadini, camminare con aria circospetta, con il loro cagnolino vicino, con un pacchetto tra le mani, fingendo che magari è la cacca del cagnolino che devono, di cui devono liberarsi, e fare una buchetta e mettere sotto i 30 centimetri annodati. E cosa succederà? L'oggetto del loro disprezzo, la loro delusione, con quei 30 centimetri piedi di nodi, si contorcerà colto da dolori insopportabili alle parti basse, avrà il torcibudello, starà male, o si ravvederà, tornerà sulla via di Damasco e avrà capito finalmente che ama questa donna. Voi ricorrete al metodo magico? Guardate che il metodo magico è andare anche dall'amica che vi fa i tarocchi. C'è un'amica tanto brava, fa i tarocchi, io non ci credo, però ci prende, ci prende. Conoscete qualche storia di qualche amica che ci prende? Raccontatemela, che io questa mattina sono proprio curioso. 800 24 00 24. Oggi vi porterò a appunto il video su come togliere un malocchio. Procediamo con il versare l'olio, che deve essere versato con la mano dominante e lentamente, una goccia precisa al centro dell'acqua della nostra ciotola. Se voi notate, l'olio non è compatto, ci sono vari pallini, vari cerchietti, di cui fra l'altro uno è ben ancorato a palla al centro. Cosa significa? Che io sono praticamente ferma e fedele a me stessa, c'è qualcun altro vicino a me, e poi ci sono state, visto che le macchiette sono 1, 2, 3, 4, ok, ci sono 4 persone che mi stanno buttando il malocchio. Va bene. Siccome sono molto lontane, significa che non sono persone della mia famiglia o comunque a me amiche o conoscenti. 800 24 00 24, come sospettavamo, c'è un'infinita reticenza. Vabbè, allora non raccontate storie capitate a voi, raccontatemi storie capitate ai vostri amici, ai vostri parenti, anche di sentito dire. Ditemi: c'è un parente, un cugino che una volta ha pagato una fattucchiera. Almeno ci facciamo un'idea di quello che succede, perché guardate, non prendetevi in giro, non prendiamoci in giro. Se queste signore si possono comprare una GoPro, una action cam, hanno comunque un sistema di ripresa sufficientemente professionale, si fanno un set in casa, si mettono le candele, i teschi, i gatti impagliati, le cose varie, hanno comunque un canale su YouTube dove puntualmente danno questi consigli, quelli dell'olio, ma no, lo vedo fare le contadine, anno 1959, capito? Davide alla vecchia, nella cucina della casa di campagna, con il focolare, l'odore di fumo, i bambini nudi che se la facevano addosso accanto al fuoco, la vecchia contadina sul tavolo, c'era il piatto, metteva l'acqua e l'olio e diceva alle zie: guardate l'olio, succede qualcosa, e via dicendo. E quelli ci credevano, ma era a metà degli anni 50. Marco, buongiorno. Sì, salve Nicoletti. Ascolti, io vorrei dare un testimone. No, grazie per il coraggio, Marco, è stato il primo, perché sono cose difficili da raccontare. Però se non le raccontiamo non aiutiamo gli altri, quindi certo. Vediamo. Guardi, io sono un tecnico, è giusto caldaie. Ho studiato, non sono uno sprovveduto che creda tutte queste cose. Però a volte possono succedere delle cose un po' particolari. Che uno non se le spiega. No. Ci possono succedere le cose, diciamo particolari, no? Che ti portano a indurre addirittura a rivolgersi a queste persone. Certo, uno quando è disperato fa di tutto. Questo, Marco, lo dico perché non voglio fare il censore. Ci sono situazioni in cui sente solo, disperato, cade la fiducia, no. E quindi si rivolgerebbe a chiunque sembra che ti possa aiutare. Certo. Mi spiego cosa mi è successo in breve, perché è un po' lungo. Io ero da un cliente, aggiustare la caldaia, ovviamente per motivi di cortesia, i tavoletta. Durante il dialogo mi aveva detto che tra vari hobby faceva anche tipo il veggente. Veggente, va bene. Ha cominciato a dirmi sempre le solite cose, a raccontarmi alcune cose di me classiche. Ma cose che le aveva dato qualche elemento per poter... No, perché non lo conosco. Vi faccio un esempio di cosa che gli ha detto di lei. Ma diciamo che io avevo fretta di sistemare alcune cose personali con la fidanzata, diciamo, no? Non capisco come è arrivato a questa conclusione che io avevo questa fretta di... Ma è entrato nello specifico perché... Allora, vedo un ragazzo giovane, butta lì, sarà fidanzato. No. C'era una donna, uno straccio di qualcuno. Guarda. Normalmente chi sta con una persona ha sempre un po' di ansia sul rapporto. Quindi... Inizialmente è stato un po' sul vago, ma non è questo il punto. Il punto è che mentre io me ne stavo andando via, questo arriva e mi fa: cioè, aspetta un attimo, fammi vedere questa mano qua. E mi dice: guarda, fatti controllare l'occhio sinistro perché per me avrei qualche problema. Dove? L'occhio sinistro? L'occhio sinistro. E mi mette una bottiglia in mano di vino, il supermercato, chiusa. Prende questa bottiglia e la porta a casa. Io racconto alla mia amorosa cosa è successo e mi fa: ma no, ma butta, la porta male. Ho detto: ma va, dai, stupidate, non siamo cavolate. Invece? No, questa bottiglia, per motivi estetici, era carina con il mobile di casa mia e l'ho lasciata in cucina per 2-3 mesi, quindi stiamo parlando era una bottiglia di vino, era una bottiglia di vino? Sì, bottiglia di vino. Ma con una marca normale, un vino si compra? Sì, del supermercato. Tipo Tavernello, una cosa del genere. Bravissimo. Allora cosa ho deciso di fare? Un giorno ero lì d'inverno, io il bicchiere di vino lo bevo, ciao, dai che apro sta bottiglia. Bevo sto vino. E a un certo punto cosa succede? E mi alzo per una cosa o un'altra, mi siedo sul divano e sento crack, ho rotto gli occhiali. Ho detto: vabbè, capita, stupidata. Sei seduto sugli occhiali? Ho rotto gli occhiali. Ho detto: e faccio, ascolta Monica, guarda che vado a casa di mia mamma a prendere gli occhiali di scorta. Vado a mia mamma a prendere gli occhiali di scorta, li metto su e non vedo. Dico: ma saranno le lenti vecchie. Allora vado dall'ottico. L'ottico controlla il metanolo fa questo effetto comunque nel vino. Sì, no, ma non metto in dubbio niente. Io le dico cosa è successo perché sono arrivato a fare certe cose. Cioè è diventato cieco praticamente? Abbastanza da dover stare 10 giorni a casa da lavoro. Cioè ha avuto un problema alla vista? Alla vista. Dopo aver bevuto il vino? Sì. Quindi da dedurre, il mago potrebbe aver detto: avrei problemi alla vista, gli dà il vino, lei beve il vino con dentro qualcosa che fa male alla vista e lei comincia a non vederci. Potrebbe essere, però la bottiglia di vino è la classica sigillata. Vabbè, di supermercato. A mettere dentro una bottiglia sigillata non ci vuole molto, questo onestamente. Vabbè. No, d'accordo, va bene. Allora cosa faccio? Vado all'ospedale, a Monza. Giustamente. San Gerardo. Mi fa la visita del fondo dell'occhio, metto: ma guardi che qua è tutto a posto. Ho detto: guardi tu, io non lo metto in dubbio, però io faccio fatica a leggere il cartello Monza, che è gigante, lo vedo sfocato. Come quando fa la vista all'ottico e mette la tropina, questa roba. Bravo, lì. Esatto. Quindi una sostanza chimica che altera la vista. Esatto. E insomma, risultato niente, va bene. Quando allora, quando hai riacquistato la vista? Un mese dopo, più o meno, questi un mese tu hai questo problema? Eh sì, perché non vedevo. Allora a questo punto, quando anche i medici mi dicono così, uno cosa fa? Ho iniziato a sfogliare internet, no? Classico. Giustamente, chiaro. E ho letto delle cose, io sono andato sui siti dove... Sono amputato da questo signore con la bottiglia e dire: guarda, te la rompo in testa se non mi dici che ci hai messo dentro. O no, aspetti. Far analizzare il vino, no? Questo non veniva in mente. Aspetti un momentino, dopo le spiego. Cosa stai dicendo? Ah, sì. La sento un po' agitata però ancora. No, lo so, mi scusi. No, lo dico, ma ha dei problemi? No, non ho nessun problema, solo che... No, perché una bottiglia per lei, nel caso, posso passargliela. No, ma com'è finita? No. Andiamo al dunque, perché sennò va troppo per le lunghe. D'accordo. Sintetizzi. D'accordo. Alla fine, dopo un mese riacquista la vista? No, dopo un mese che comunque vado dai dottori e nessuno mi dice niente, sono stato costretto, sono andato da un parroco. Il parroco mi ha detto: guardi, ma va, tutte coincidenze, qua là. Giustamente. E da lì sono andato addirittura da un esercista. E che ha fatto l'esorcista? Ma niente, ci ho parlato, ho detto... Benedizione avrà dato così? Sì, tipo le classiche benedizioni. Sì, quella danno a tutti. Dopo lì sono passato nella tranquillità, insomma, dopo piano piano sono passato, cioè è passato il problema da solo. Però il punto è che io volevo dire che ci sono a volte degli eventi che da fuori possono sembrare stupidi, ma chi li vive e non ha risposte da dottori... Ma lei alla fine di tutta questa storia che idea si è fatta? Non lo sa. L'idea che mi sono fatto. Ma perché veramente... non è tornato da quel signore? Scusi, è l'origine di tutto. Cioè... No, non sono andato perché quando ero andato dall'esorcista me l'aveva sconsigliato. Lui mi ha detto: se c'è qualcosa di questo genere, che siano vere, che siano. Meglio che stai lontano. Meglio che mai andare a quelle persone lì, perché quelle persone lì sono persone. Quelli che fanno i malocchi sono anche quelli che. Ah, quindi il prete ci credeva al malocchi, ha detto: esiste il malocchi, certo. Lui metto lì, sì, esistono. Vabbè, ma l'esorcista. Sì, a queste persone, perché sono proprio quelle persone che. Vabbè, adesso sta bene, tranquillo. Con la fidanzata come va? Sì, no, tutto ok, convivo, tutto a posto. Ci vede bene? Sì, ci vedo bene, tutto quanto. E che io l'avevo chiamata perché ho sentito che lei parlava di quel imprenditore che aveva preso 300, sì, passa 1000 euro. Quello succede perché? È perché quando nessuno ti dà delle risposte, lei avrebbe pagato per riottenere, no? La vista avrebbe pagato. Beh, se vado a un certo punto nessuno ti dice nulla, nessuno ti. Marco, stia tranquillo, è molto chiaro, la sua storia è chiarissima. Lei, tutto sommato, meglio che non ci è tornato a quel signore, sennò chissà cosa avrebbe fatto credere, chissà cosa avrebbe tirato fuori. Forse ha valutato il fatto che da un aggiustatore di caldaie non poteva poi tirare fuori più di tanto, e quindi ha detto: ma non vale la pena nemmeno, gli diamo soltanto il vino con la polverina che gli manda via un po' la vista per un po' di tempo, e poi ritornerà tranquillo e chi si è visto, si è visto. Caterina. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Mi sente? Perché ho il viva voce e non posso fermarmi perché sono in centro a Milano. Sì, sì, l'ascolto. Vada subito, perfetto. Racconti allora, la storia in maniera velocissima. Velocemente dico che ho avuto e ho esperienze dirette di cartomanti piuttosto che di medium, che sono persone che prima di tutto non si sanno pagare. In secondo luogo... mi hanno sempre dato prova, ma non solo per me, per le persone che ho accompagnato, che c'è un legame probabilmente soprannaturale. Io credo con i nostri cari di là. Certo, con le anime dei morti, sì. Ma questi qua, di che vivono questi medium? Di cosa vivono se non si fanno pagare? Vivono della loro pensione. Io ho due donne anziane, dolcissime, simpaticissime, che non hanno bisogno, non vivono di quello. Lo fanno per gli altri, anzi secondo me gli dedicano fin troppo tempo perché toglie energie e sono due persone positivissime. E l'hanno fatta parlare con i suoi morti? Io ho parlato con mia nonna e sono sicura che fosse lei. E cosa dice sua nonna? Mia nonna è felicissima, è serena, sta bene, mi danno sempre la sensazione che di là si stia benone e che comunque ci sono e non possono risolverci i problemi della vita, quindi non si va da queste persone per farsi risolvere. Solo per la serenità di sentire fare due chiacchiere con la nonna morta, ecco, questo è il risultato. Esatto. Sono delle brave signore, in fondo svolgono un'azione sociale. Chi tante volte, non so, a domenica sera non gli va di stare a guardare Fazio dal tizzetto, va dalle signore e parla con la nonna, mi sembra anche molto più gratificante come esercizio. Fino a qua però, se non si fanno pagare, è una libera scelta, uno può andare a parlare con la signora e parlare con tutti i morti che vuole. Melog. Per legare il marito o la moglie, di giovedì alle 10 mettete un pizzico di fiore di primula in una tazza di acqua bollente, fate raffreddare, filtrare e versare 10 gocce sulla foto. Sugli indumenti intimi del marito o della moglie tracciare 7 cerchi con il dito indice della mano destra imbevuto nell'infuso. Il rito va fatto per 10 giorni. Cominciate a sospettare quando avete cerchi sospetti al posto delle consuete sgommate sulla vostra biancheria intima, vuol dire qualcuno vi sta facendo qualche sortilegio. Voi vi sembreranno le cose strane fuori dal mondo. Questa mattina un'amica mia, una dottoressa, ha postato sul mio profilo Facebook, potete andarlo a vedere, una medicina che viene venduta in erboristeria, di cui fa uso una persona che ha forti crisi di panico. È un piccolo spray che viene spacciato per un medicamento. Vedere la composizione, c'è soltanto acqua, qualche goccia di cognac, c'è scritto spruzzarlo a volontà sulla lingua tutte le volte che c'è una crisi. Immaginate, meglio portarsi una bottiglia dietro, ma qualcuno va in erboristeria masseria a prendere lo spray della salute con i fiori di Bach, in realtà c'è acqua e due gocce, che ne so, di Amaro Montenegro, di vecchia Romagna etichetta nera, non so cosa ci sarà mai, capito? Invece prenda la bottiglia e va come tutti la mattina nei baretti, quando aprono sono quei signori col vecchia Romagna lì o col Fernet, si fanno il bicchiere, quelli almeno non sono depressi. Marco, buongiorno. Buongiorno a lei, salve. Premesso, i tempi radiofonici sono stretti, faccio veloce. Questo lo racconto perché succede nella mia famiglia. Mia madre è in grado di vedere se una persona ha il cosiddetto malocchio, e poi la cosa più importante... Cioè vede le persone morte o vede il malocchio? Cosa vede? No, vede il malocchio se le persone sono state... Ma la cosa lo vede? Gliel'ha chiesto? No, io lo vedo, perché me l'ha fatta anche a me, con dell'acqua e dell'olio d'oliva. Ah, con l'acqua e l'olio, certo, sì. L'acqua e l'olio. Però la cosa che te devo dire è che lei segna, che nella lingua nostra, quello è detto il fuoco di Sant'Antonio. Nella lingua, no? Spieghi bene, come si fa? In italiano. Nulla, è una pratica che fa lei facendo fare degli impacchi di latte e riso, e poi con delle preghiere che solo lei dice, chiaramente non dice a nessuno. Ma come sono quello queste preghiere? Ma preghiere tipo alla Madonna? Quelle solite? No, sono preghiere religiose che fa lei. Ma però queste cose non si capisce niente. No, sono semplicemente preghiere normalissime. Vabbè, preghiere dei preti, quelle normali. Esatto, allora questo gli allora, vi mette il risottino sullo zaiolo e... Non è un risottino, è un impacco di riso. Comunque il riso per natura è una cosa che... Vabbè, l'acqua e riso è risotto. Anche lenitiva. Per cui, però me l'ha fatto a me perché mi ha guarito me. Ora il discorso è che... E dove gliel'ha messo lei? Scusi, no, per capire bene. Mi è venuto il fuoco di Sant'Antonio all'altezza dei reni, tanto per intendere. Sulla schiena? Sulla schiena. Quindi lei si prona sul letto, sua madre gli mette il decotto? No, ero semplicemente in piedi. Ma casca giù se è in piedi, poi... scusi, scivola. Come fa? No, mi è un impacco avvolto dentro un panno di cotone. Spiegare però, se non si capisce. Quindi è tutta una specie di bendatura. Sì, esatto, una specie di bendatura. E quanti giorni deve tenerlo lei, quell'impacco? Ma l'ho tenuto una nottata, notte intera, il giorno dopo ha iniziato già a guarirmi. Lo sa cosa mi dispiace tutto questo? Ma questa mica magia, scusi, questa è medicina naturale. Questa è la medicina naturale, io non so. Che mia madre è 40 anni fa questa pratica, da casa sua è passato centinaia di persone, non ha mai chiesto una lira a nessuno. Vabbè, perché è una persona seria. Tutto lì, questo vabbè, sua madre lo fa gratuitamente. Non mi sembra che siano proprio pratiche magiche, sono pratiche un po' di piccole accorgimenti popolari. C'ha la cosa sulla schiena, gli mette il riso, lo avvolge, è un impaccone e magari passa. Va bene, Silvia, andiamo a vedere se troviamo qualcosa di veramente magico. Silvia. Buongiorno, dottor Nicoletti. È successo moltissimi anni fa, tipo un 25, ed era un periodo in cui vanno tutte storte, lavoro, casa, tutto quanto. Esco dalla banca ancora peggio di quando ci sono entrata e vedo una zingara. La zingara deve avermi visto in faccia che non ero tanto contenta. E così si avvicina e comincia a dirmi: tu meriti di più dalla vita. Beh, c'ha la faccia incazzata, chiaro. Ero triste proprio. Mica vanno a fermare quelli contenti, camminano mezzo metro da terra. Esatto. E allora io pregherò per te la Madonna d'Egitto che ti faccia avere. La Madonna d'Egitto? Famosa Madonna d'Egitto, esatto. Ma in Egitto ci stanno i faraoni, mica le Madonne. Nefertiti, ci sono altre Madonna cose. Madonna d'Egitto? Ma dire la Madonna, quale Madonna? La Madonna d'Egitto? Ecco, è un modo di dire però. Come dire uno scherzo. Vabbè. Ecco, esatto. Prega la Madonna però, d'Egitto. Magari c'è davvero. Ero non lo so. Disperata, no? E quindi andava anche bene la Madonna d'Egitto. La fuga in Egitto, certo, la Madonna in Egitto. Che diamine. Allora mi dice: dammi qualche cosa perché io prego la Madonna. E volevo dare 1.000 lire per pregare sta Madonna d'Egitto. Beh, 1.000 lire è un po' poco. Però. 1.000 lire è poco. Insomma, 25 anni fa. Oggi, 50 centesimi per una preghiera. Vabbè. Cioè oggi se non dà 2 euro a un parcheggiatore gli sfregia la macchina, una preghiera sì, 50 centesimi. Non so, ma insomma era un'offerta per una preghiera. Vabbè, allora e si è accontentato. E ho aperto il portafoglio, da volte che sono, e fa: ma tu lì hai 50.000 lire, ha indovinato questi. I soldi che aveva nel portafoglio? No, ha guardato più che altro perché sono squalacce, quindi allora con 50 euro altro che una preghiera. E quindi gli ho dato queste 50.000 lire che poi non me ne avanzavano. E perché gliela date? Perché pregasse la Madonna d'Egitto. Ah, quindi non bastava più una preghiera da 50.000 lire. 50.000 lire, per quando poi me ne sono andata ho cominciato a dire no, la Madonna d'Egitto. No. Ho fatto una cazzata, pensava. Mi rimprovero ancora adesso. E beh, che è successo? Ha cambiato qualcosa? Ma no, perché deve cambiare qualcosa? Ho 50.000 lire di meno, basta. E la sua vita non è cambiata da un momento all'altro? forse mi sono svegliata un pochino. Quello sì, però la tecnica che hanno queste zingare è quella che sono talmente veloci e convincenti che uno non se ne rende nemmeno conto. Esatto, è la velocità. È una situazione di disagio. Dammele, ti prego la Madonna, lei mentre pensa, già se l'è presa, se n'è andata. Sì. Vabbè, diciamo ancora siamo in una zona intermedia in cui non c'è proprio la pratica. Io voglio sentire storie proprio come il pupazzetto di Das con i bulloni infilati nelle palle, roba tosta, se no non ha senso. Stefano, vediamo se buongiorno a tutti. Ha storie un pochino più concrete? Sì, allora non so se sono concrete. Vediamo. Allora, io adesso ho 33 anni, all'epoca avevamo 15 anni, io e il mio gruppo di amici, e qui nel sud Italia c'è la tradizione, la tendenza di avere ognuno un localino per prendere in affitto, per stare insieme, per passare un po' la serata insieme, giocare a carte, dire. Si chiama scannatoio questa cosa qua? Sì, lo scannatoio. L'abbiamo sempre avuto per anni. Lo scannatoio, vabbè. Detto ciò, un giorno andiamo in una piccola per far capire come ci si può, questa gente può avvicinarsi della gente normale. Eravamo andati a una rosticceria a prendere un pezzo di focaccia, anche vediamo che c'è un signore, un ragazzo più grande di noi che ci segue. Anche io dico al mio amico, ma lo conosci? No. Questo si avvicina finché ce lo ritroviamo nel nostro localino. Entra nello scannatoio anche l'uomo. E che facevate? Detto ciò, quanti eravate? Il numero è quanti eravate? Beh, noi eravamo una buona comitiva di 10 persone. Cioè 10 persone con un pezzo di pizza e uno sconosciuto. È una festa. E uno sconosciuto. Ecco come si avvicinano questi soggetti. Botta di vita. Ora che cosa succede? Che questo qui dice, ciao ragazzi, io sono Davide, si presenta, fa così, fa colà. E a un certo punto inizia a dire che lui è un mago. E un mago inizia a venire fuori dalla sua tasca queste fotografie strappate dai manifesti dei morti in paese, dicendo che lui fa fatture, fa cose così, anche noi un po'. Cioè lui strappava le foto dei morti dai manifesti morti. Sì, e andava in giro con queste foto in tasca, sì, solo per quello. Ma qual era il nesso, scusi? Il nesso era che lui faceva le fatture, lui diceva che... Quelli l'aveva ammazzati tutti lui? No, assolutamente. Lui diceva semplicemente che guardando le foto dei morti prendeva queste energie, ma il succo era che lui riusciva a leggere la mano, faceva... Finiva a spada di fuoco, secondo me. Se sì, lui era un emerito coglione. Detto ciò, la cosa diventò più preoccupante quando vidi che i miei amici, che erano intelligenti come me, ma forse non come me, ci credevano, iniziarono a farsi un po' plagiare. Io dissi, ragazzi, ma scusate... Ma state, perché questo poi si presentava ogni giorno nel nostro locale. Ah, quindi è diventato abitué dello scannatoio. Perfetto. Allora io dissi, ragazzi, ma state dando, veramente state credendo da sto coglione. Allora, lui aveva preso l'abitudine di leggere la mano a tutti, meno che a me, perché aveva capito che c'era una... Era l'unico scettico. Ah no, lei c'aveva le energie. Lui diceva, no, non posso leggerti la mano perché tu hai delle energie. Aveva già capito tutto. Adesso le chiamano così, sì. Anche, allora io che cosa feci? Dovetti cercare di fargli credere che anch'io stavo, credendo alle sue stronzate. Sì, e allora come è finita? Iniziò un processo di 10 giorni che iniziavo ad assecondarlo. Ma scusate, io solo per capire, che paese era questo qua? Dove stavate voi? Non posso dirlo perché questa persona no, poi... fa bene a non dirlo, perché 10 uomini che hanno uno scannatoio, che vanno tutti i giorni lì e perdono tempo con uno che gli cerca l'energia. Ragazzi di 14 anni, dopo la scuola e dopo i compiti che fai la sera. Ah beh, vabbè, alla fine com'è finita con questo legno? Io dico, ok, ora vuoi leggermi la mano? Perfetto. Lui dice, sì Stefano, stasera ti leggo la mano. Lui ogni volta che leggeva la mano... Quanti anni aveva questo qua? Era più grande di voi? Sì, aveva 20 anni. Ma allora vi chiedeva anche cose strane, ti tolgo il malocchio, fammi vedere dove nascondi l'energia. Strozzate, no? Se vuoi ti dico tua nonna, tuo nonno che è morto, che cosa ti dice dall'aldilà, una serie di strozzate. Vorrei la favola, la prassi sua è che per leggere la mano tutti gli altri devono uscire fuori da questo locale e stare solo io e lui nella stanza. Se no come faceva a tirargli fuori l'energia, scusi? Era proprio quello che volevo, perché noi eravamo, non avevamo l'elettricità, quindi avevamo solo al buio le candele. Lì però a un certo punto entra in gioco la spada di fuoco che illumina tutto. A un certo punto entra il mio piano diabolico, Nicoletti, ok, io sto di fronte a lui, c'è solo una candela, gli dico, ok, leggimi la mano, lui prende la mia mano, lui prima ha chiuso bene tutte le porte, cioè, gli amici sono fuori, curiosi a sentire chi sa, pure Stefano si è cominciava convinto. La festa. Morale della favola, io con un soffio spengo la candela, e lui rimaniamo al buio, io e lui, gliene do così tante. L'ha menato. L'ho menato di brutto. Da allora non Perché per menarlo tutta questa per menarlo il primo giorno subito a secco e via. Non so perché. Beh, in effetti si poteva menare prima, però ma lui aveva messo le mani addosso quando No, no. Cioè, l'atto dello smorzacandela fu successivo. No. Non lo so, vabbè, abbiamo capito, Stefano. È un po' ambigua questa storia. Maria Teresa. Sì, è un po' ambiguo. Quello che voglio sottolineare è che. Ah, fermo, fermo, Maria Teresa, dobbiamo darla lì. Il primo rito che intendo illustrarvi oggi è il rito per potenziare le candele prima di usarle. Mettere le candele esposte per 7 notti fuori della finestra quando la luna è in fase crescente. Di giorno siano tolte e messe in un luogo buio. L'ottava notte siano messe al centro della tavola della polarità e ricoperte da un panno bianco. La nona notte mettere le mani sopra le candele per alcuni minuti e dopo tracciare su di esse 7 cerchi con il dito indice della mano destra imbevuto della vostra saliva. Lasciarle al centro della tavola per 3 giorni e 3 notti ricoperte da un panno bianco. Importante, quando non vengono usate più, siano messe in un luogo buio e nessuno all'infuori di chi effettua i riti le tocchi. È complicato, io ho provato a seguire, già ho perso il filo. 7 candele, bisogna sputar sulla mano, far 7 cerchi, aprire col panno, tenerle sul tavolo. Cioè, bisogna avere anche una casa immensa, perché una casa che per 7 giorni nessuno entra in una stanza perché ci sono le candele col panno con la sputazza dentro. Maria Teresa, ecco, abbiamo ripresa. Andiamo, sì, al punto. Quello che voglio appunto sottolineare intanto è, come premessa, è che è un tema abbastanza particolare, non è tanto da scherzare, perché purtroppo la magia esiste e nel momento in cui, diciamo, noi tutti ci allontaniamo dalla vera energia di Dio, cioè ci prende. Infatti una signora che ho conosciuto... Devo capire bene, guardi, non è che sono uno scettico a priori, io posso, tutto posso credere, io potrei venire adesso a apparirmi mio nonno davanti, non no, mi stupirei. Io diciamo frequento una parrocchia dove si tengono delle messe di liberazione, ho conosciuto una signora. E cosa sono le messe di liberazione? No, vi faccio capire che voglio documentare. La messa di liberazione consiste nell'invocare Dio, ma non le forze del bene. Vabbè, non una messa normale, tutte le messe invocano Dio. No, si invoca, ci sono dei salmi che si recitano, si invoca l'intercessione dell'arcangelo San Michele che ha schiacciato la testa del demonio. Vabbè, è una specie di esorcismo, anche nell'esorcismo si chiama in causa San Michele. Sì, ma infatti esiste il malocchio, perché questa signora che ho conosciuto... Ma chi le officia queste messe di liberazione? Il parroco? Sono dei sacerdoti specializzati, nominati dal vescovo. Vabbè, come degli esorcisti sono. No, perché hanno anche delle capacità da parte di Dio. Cioè, ma dove avviene questa cosa di solito? Avviene in un locale normale di chiesa. Ma dove? In quale paese del mondo, per capire? No, ci sono diverse, per esempio la zona dove vivo io, ci sono parecchie. E dove vive lei? Dove vive lei? Io sono nell'area di Bari. Nel barese ci sono queste. Perché non so, anche l'altra volta a proposito di Linea Verde è uscito la terza, le faccio un esempio, dove si è parlato molto che anticamente facevano molto uso di magia. Bene, antico e, sì, ma oggi forse... Sì, e quindi la gente ignorante e molte volte presa dalla frigilità incappa in queste situazioni. Ma lei ha assistito, Maria Teresa, a queste messe di liberazione? Certo, ce la frequento. Ma sono quelle che cui la gente poi ha le convulsioni, cade per terra? No, il mio sacerdote, cioè questo sacerdote che io frequento, le fa prima i riti di liberazione con delle persone che pregano. E quelle si sbattono come nel film L'Esorcista, hanno queste cose. Sì. Parlano lingue strane, bava la bocca. Ma guardi, mi è stato riferito che addirittura cambiano connotati le persone. Si cambia la faccia. No, connotati anche a livello di, per esempio, se uno è grosso e obeso, salta come una gazzella. Cioè, le dico proprio delle cose che sono dette da persone che fanno parte. Vabbè, sono manifestazioni. No, parliamo di questi riti privati. Ma questo fa il prete in privato, poi quando è pubblico nessuno sviene. In pubblico, diciamo, queste persone lamentano dei fastidi. Cioè, nel senso che essendo stati presi dal male, è chiaro che... Però questo, posso dire una cosa, questo comunque rientra nei canoni regolari, uno può ironizzarci, dire, però è un canone ecclesiastico normale, il prete fa una messa con persone che dicono di avere una possessione diabolica, in qualche maniera le libera. Non è che questo è un rituale che ha in sé del magico, ma comunque sia è inserito in un'organizzazione che su questo vive. Quando portavano in giro per Roma la mummia di Padre Pio di silicone, la gente pensava che anche quello è un rito magico, però fa parte, diciamo, di un filone religioso. Non credo che su questo ci speculi qualcuno. Quello vorrei capire questa mattina è delle persone che hanno i video su YouTube, vendono magie, vendono esorcismi e infilano gli spilloni nei testicoli dei pupazzi di Pongo. Claudia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno dottor Nicoletti. Dunque, io volevo raccontare la storia di un mio ex fidanzato, un ragazzo maltese, oltretutto una persona colta, cioè, un certo livello culturale, ecco. A un minuto, è velocissimo, vada al punto. Niente, mi ha riferito praticamente perché si rifiutava all'inizio di darmi una sua fotografia, perché lui navigava, eccetera. Ah, un marinaio dopo mesi, era. Esatto, era un comandante di nave. E dopo, vabbè, dopo vari mesi, eccetera, ci siamo messi, eravamo un po' più intimi, e allora le fotografie, cioè, lui mi ha detto, sai cos'è? Che comunque non volevo, perché una volta sono stato incantato da una donna, io incantato intendevo proprio innamorato, pensavo, eccetera. E le ho detto, vabbè, ma che c'è di male? No, no, mi fa proprio incantato, mi ha fatto un incantesimo. E detto, che incantesimo, scusa, ma... E che gli era successo? Allora, praticamente lui a un certo punto, siccome sta donna era diventata molto possessiva, ha voluto lasciarla. E lei gli ha fatto l'incantesimo, che risultato ha avuto? Qual è stato il malefico? Se lei lo chiamava, lui correva, anche se non voleva, lui ci andava a qualsiasi ora e faceva qualsiasi cosa lei volesse. E questo, quando questo uno, scusi, punto, no, scusi Claudia, quando uno è un po' attizzato, sì, succede anche senza incantesimo. Però il problema è che poi lui non voleva, ha cominciato ad avere dei problemi anche, ha cominciato a dimagrire, ha cominciato a stare male. Vabbè, non si attizzava con le altre. Allora, il suo uomo si è giustificato con lei, che non era all'altezza della situazione, dicendo, ma ha incantato quell'altra, e se non trovi l'oggetto l'obelisco della passione, perché l'altra mi ha fatto l'incantesimo. Noi uomini ricorriamo qualche volta a questo trucco, se ne faccio una ragione.